Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho ordinato le magliette della zanzara 3 settimane fa e non sono ancora arrivate. Siete peggio dell'ATAC di Roma, più inefficienti ancora. Si rivolga da un'altra parte. Non siamo responsabili noi qui che siamo dietro il microfono, non siamo responsabili. Cruciani. Pensavo che con Mauro da Mantova avessimo toccato il fondo. Poi è arrivato Giulietto Chiesa. Spero che un comando Mossad capitanato dal colonnello Parenzo e dalla sexy soldatessa Natania Zevi lo vada a trovare di notte per sottoporlo a waterboarding. Così si schiarisce un po' l'idea ai ragazzi. Questa non era male, devi ammettere. La gente, ma questo conferma la tesi. No, hashtag la gente è matta. Riconosco il talento. Parenzo e la sexy soldatessa sì, Natania Zevi. Imbracciata. Immagina sia Natania Zevi col fucile. No, fermati. Capelli neri. Fermati. Col fucile in mano ebraico. Sal, intanto. Ho detto sal. Sì, certo. Siete pazzi comunque, dai, gente malata. Su, gente avanti. Chiudi la trasmissione qui, è meglio, fai più bella figura. 18:38, chiudi qua. Manda. Ma lo sai che un consigliere effetto del PD. Effetto notte o effetto giorno? Come si chiama? Ma che cazzo ne so. Lo sai che un consigliere del PD ha detto che è pronto a tagliare qualche testa islamica? Sì, ho letto. Signore del PD di La Spezia. Ma forse scherzava, no? Perché poi scherzano tutti. Sempre. Sinceramente, non sono più giovane, ma se c'è da tagliare qualche testa islamica per tutelare i miei figli, de nada problems. Basta che mi fate il macete. PD, ho vissuto fin troppo. Diamoci da fare per gli altri e la sicurezza dei bimbi. Poi dice che voleva fare un esperimento mediatico. Sì, un esperimento su Facebook. Ma chi è Orson Welles? A roba davanti. Ragazzi, qui c'è Telese che è attaccato contro Gasparri. Telese numero uno. Telese è tornato. Assoluto. Telese is back. Telese contro Gasparri. Ieri sera l'argomento qual è, amici miei? Naturalmente è cosa fare con gli islamici, cosa fare con i terroristi islamici, la solita roba trita e ritrita. Però ve lo propongo perché c'è un Telese in grandissima Ottimo. Forma. Telese is back. Quanti sono i musulmani in Europa secondo te? Grosso sono modo. Diversi milioni. Quanti? Sicuramente. Quanti? Diversi sono, che vuol dire? Sono molti milioni. Non sai di che cosa parli? Sono quanti? Più di quelli che noi quanti possiamo Quanti più o meno? Sai di che cosa stai parlando? La quanti sharia sono? Nelle nostre terre. Vabbè, ora urli perché non sai quanti sono. Urla cioè già, tu arrivi preparato con una preparazione guarda, da compito dell'elementare. Io sono per Saputello. Ma il terrorismo. No, io lo difendo il terrorismo. Sì, sì, sì. Quanti sono? Hai idea di che cosa stai parlando? Allora, la questione è molto semplice, con un argomento semplicissimo. Mi ha fatto una domanda corretta. Quanti sono gli islamici in Europa? Gasparri è andato in crisi e ovviamente quando uno va in crisi reagisce a modo suo, come Gasparri, no? Che dice, sei complice dei terroristi, via. Cioè, se ti uno fa così a un esame universitario, poi guarda, viene mandato via senza neanche firmare sul libretto. Parlo delle vittime dei musulmani. La gente sta capendo che tu siccome non sai quanti sono i musulmani in Europa, non ne hai neanche un'idea, non ti avvicini neanche al numero, allora dici che io sono amico ai terroristi. La marina italiana è diventata la marina degli scafisti, che è una cosa grave. Tu sei un fascista serio, devi stare con le forze dell'ordine. E Shaki è diventato un nemico della polizia. Sei un provocatore. Ma allora, la cosa incredibile è se sei un fascista serio devi stare con le forze dell'ordine, giusto, perché giusto, lui dice che la marina militare e la polizia fondamentalmente sono diventati amici degli scafisti, ma molette, no? Pacifisti, sì, collaboratori, certo, degli scafisti, eccetera, sì, eccetera. Sì. Vai. Ci vorrebbe il contatore come Teleto, perché grazie ai tuoi amici ne entrano io faccio il terrorismo. Hai capito? Fermiamoci. E non vogliono la nostra democrazia, la nostra libertà. Tu sei uno schiavetto di questi della Sharia. Questo sei, sì, sei uno schiavetto della Sharia. Tu non sai niente, perché essendo un comunista sei subalterno a questa cultura del terrorismo e dei clandestini. Ma questa è la verità. Tu sei un'apologeta degli assassini. Questo sei. Ma neanche una parola di contrario. Non sai quanti musulmani c'è in Europa. È grave. Ma chi se ne fotte se sono 30 milioni o 40 milioni? Come no? Arriva Gasparri col pulmino di porta via. Sono tanti. Ti devono ammazzare tutti. Questo stai dicendo. Ti viene pure un problema alle coronarie. Telese 10 e lode. Telese 10 e lode. Calma, ti viene un problema alle coronarie. Bene, ma che cazzo bene. Mi frega se so 30 milioni, 40 milioni. Sì, vai col pulmino a prenderli. Vai. Bravo, col pulmino, giusto, bellissimo. Sei ma facevi così anche a scuola? Assassini. Sì, degli assassini. Gente come mi mandate per favore questo servizio sulla moschea di Roma? La nostra Elena Redaelli. Saputello, amico degli assassini. Ci sei rimasto male che non sai ma cosa mi rimasto male? Ora mando ma un servizio, no? Ora mando del un servizio, ve lo dico. Dire 30 milioni, 40 milioni, allora che cazzo? O la piantate o io faccio un mille di voi due. Ma il problema è il numero o che ammazzano? Si mette a sedere. Il problema è il numero. Sembri ma vuoi mandare via pure Shaki? Mike mi vuoi mandare via come Shaki, bellissimo. Molto bene, molto. Ragazzi, diamo un voto qui stasera a Gasparri versus no, Telese. No, 10, Telese is back. Donato. Tornato a combattere, tornato contro D'Artagnan. No, comunista, Donato contro D'Artagnan. No, quello ho sentito, quello è stato terribile. Lì è rimasto annichilito. Donato, chiama, ti prego, per dire qualcosa su D'Artagnan. Ti prego, ha detto delle cose vergognose quel Donato. Ah, amico mio. Sai che tra l'altro non era pronto in quel momento, tra l'altro, buon Telese, un non uccellino era pronto, mi dice no. Un uccellino mi dice che il signor Del Debbio si è molto incazzato, perché naturalmente temeva che Gasparri cominciasse a fare qualche telefonata a casa Mediaset, no? Però pare che Gasparri non abbia fatto nessuna telefonata a Mediaset per dire no, ma che cazzo è Telese, conduce Matrix, anzi stasera credo c'è Matrix stasera, forse sì. Ospite, forse bene, sarà ospite. Benissimo. Allora, mettetemi Giulietto Chiesa contro David Parenzo. Allora, come sapete, Giulietto Chiesa Giulietto pensa... chi? Chiesa, signor Chiesa. Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa pensa che ci sia era una... Era un giornalista una volta, sì, uno no? Corrispondente era l'inviato, bravo, da Mosca. Era un giornalista, sì. Aspetta un attimo. Allora, Giulietto Chiesa pensa che dietro le stragi di Bruxelles ci sia una specie di spectre, di spectre governato da pezzi di servizi segreti anche israeliani, americani, eccetera, per terrorizzare l'Europa. È finita così, comparenzo. È finita così. L'ISIS è uno strumento, così come fin dall'inizio l'ISIS è stato uno strumento di altri. Che puttanate. Sia uno strumento di altri, non c'è bisogno di ma dimostrarlo. Di chi? Aspetta. Solo di... i citi non lo vedono. Allora, ma di chi? Aspetta un attimo. Ma chiedigli di chi però? Un attimo solo, Giulietto, un attimo solo. Andiamo, cerchiamo. Fai tacere questo cretino che mi sta interrompendo. Anche oggi deve dire, ma io pensavo che allora, oggi. Vuoi stare calmo un attimo? dobbiamo sentire la fanta politica di Giulietto Chiesa che da Mosca ci tu dice che ce l'aspetta. Te l'ho detto che sei un grande cialtrone. Ma veramente, ma ti disonora la professione. Ma che ti dice il cervello? Ma sta ragionando su una cosa. Che ti dice il cervello? Sei un figlio di puttana che ti disonora la professione che stai in. Ah, adesso insulti pure. Ma stai zitto, David. Sei un vero, 34 morti della notizia. Ah, io con te non ci parlo. Io 34 morti, uno deve sentire queste puttanate. David, stai fermo. Arrivederci e buonanotte. Un attimo, Giulietto, un attimo. Mi trovo in Lapponia, 300 km a nord dal circolo polare artico, e ascolto la Zanzara. Traffico. La Zanzara. Ormai siamo invasi. La Svizzera, l'Australia, quelli no. Allora, lo potremmo chiamare anche lo scemo del giorno. Come lo vogliamo chiamare questo qua del PD alla Spezia che ha detto pensavo parlassi di Giulietto Chiesa, guarda. No, ma lascia perdere Giulietto Chiesa. Non lo scemo, la scimmietta del giorno, la scimmietta. Adesso perché lo devi definire una scimmietta, dai, no, su. La scimmietta del circo, ti ha dato del figlio di puttana, anche ma vero, io non mi sono offeso per quello, perché figurati, mi passa come l'acqua. Cioè, tua madre, come... tu dice, no, è in una situazione talmente, no, ma chi se ne frega, talmente al di sopra che anche se le dà, di male che questo idiota mi faccio dire, è l'argomento, è il fatto che non avendo argomenti è arrivato a insultare in questo modo, capito? Ma veramente, allora, poveretto. Sono pronto a tagliare qualche testa islamica, questo qualche altro, testa islamica, un signore Enrico Conti, Partito Democratico, però, cioè non leghista, Partito Democratico, ecco, esatto, questo è interessante. di La Spezia. Vogliamo fare una telefonatina? Prova. Andiamo. Benissimo. Otto. Pronto? Sì, Conti? Chi è? Sono Cruciani, come stai? Ciao, dimmi. Ma che abbiamo combinato? Un casino? Abbiamo. No, ah, perché no? Assolutamente. Beh, no, scusa, insomma, tutto tranquillo, non direi. Comunque, hai detto che sei pronto a tagliare qualche testa islamica? No, attenzione, il discorso è un po' diverso. Attenzione. Ho fatto delle presentazioni anche su Facebook. Andate a vedere. Sì, ma l'abbiamo letto. Io ieri sera ho fatto due post. Uno di taglio più populista, questo decisamente. Ah, post di taglio populista. È un altro di taglio più ragionato. Questo è il mio modo di operare all'interno delle mie amicizie virtuali. Poi, se c'è qualcuno che vuole speculare su quello che faccio... Ma scusa, ma se uno scrive, non è che lo scrivo io, lo scrive un consigliere comunale del Partito Democratico. Certo. Se scrive, sono pronto a tagliare qualche testa islamica. Uno non è che interpreta. No, non c'è un da modo interpretare. Chiedo scusa, la provocazione era sulla frase complessiva, non sull'estrapolazione che stiamo facendo. Però a me questo non interessa, perché questo è l'aspetto polemico. A ma me come l'aspetto? Che io ho scritto, ti chiedo scusa, lo so che dovete fare il vostro ma lavoro. Ma non dobbiamo fare il nostro lavoro. Brand della vostra, ma se uno scrive, ma non c'è nessun brand qui, non c'è nessun brand. Ma scusami, l'altro post che ho scritto ieri sera era sempre sulla stessa problematica, ma in modo ragionato. Questo io lo faccio per capire i miei amici. Sì, però questo, scusami, mi sembra una scusa bella e buona, dai, su. No, non è una scusa per niente, quello non è il mio pensiero, la tagliamo corta. Il mio pensiero è ben altro, quella è la provocazione che ho voluto fare, non mi voglio infilare dentro una polemica che non mi appartiene. Scusa, ma come ti sei infilato da solo? Quando uno tu l'hai scritto! Siete voi che state facendo tutto un discorso su una polemica che non mi appartiene. Con ordine, senza incazzarsi, con grande a ordine, calma e pacatezza e tranquillità. Serenità. Chi ha scritto quel post? Tu o Cruciani? Tu l'hai scritto, no? Ma non c'entra niente. Ho detto che non l'ho scritto. Benissimo. Allora, ma io ti sto se lo hai ti scritto sto... tu. Vedi, ecco il punto che adesso devo spiegare e non posso parlare. Io ho scritto contestualmente prima uno e poi l'altro. All'interno delle mie amicizie virtuali. Io non pensavo che qualcuno andasse a speculare. Ma... premesso. Ma che vuoi speculare? Quello è... le risposte non della Zanzara. Ma è un post giornali. Pubblico. Le risposte dei miei amici virtuali. Ah. Detto amici questo, la cosa è andata oltre e vi assicuro che è una polemica del tutto infondata. No, ma sarà infondata, ma se uno scrive, cioè, la comunicazione bisogna anche capirla. Sì, conosci la mia vita, ma tu non sai chi sono, io sono uno qualsiasi, uno di passaggio che oggi serve per fare audience, non sono nient'altro. Scusa, ma che l'ho scritto io quella cosa, come se avessi provocato io quella cosa attenti, là, scusami. Non incominciare a scrivere, ti ho già detto che ho scritto questo e che ho scritto anche un'altra cosa, e il perché ho scritto questo e un'altra cosa. Ma se uno scrive due cose, questo. Se uno scrive sono pronto a tagliare qualche testa islamica, ma uno perché dovrebbe interpretare una cosa diversa? Esatto. Spiegami perché. Siamo in democrazia, quindi giustamente la interpreti in quel modo. E invece era invece è che cosa? Non spiegamela bene allora. Invece te l'ho già spiegato prima. No, spiegamelo meglio. Ho fatto due post, ti ho detto, per provocare, per capire. Sì. Per provocare chi? Per provocare la discussione all'interno dei miei amici virtuali. Non con voi o con i giornali. Ma che vuol dire amici virtuali? Ma tu sei un consigliere comunale, non è che quando pubblichi una cosa su Facebook non rimane. Non l'ho pubblicata sui giornali. Io non l'ho pubblicata sui giornali. Ma Facebook è meglio dei giornali. L'ho pubblicata su Facebook e sui miei amici. Ma è più forte dei giornali. Facebook è più forte dei giornali. Sì, me ne sto rendendo conto. Hai detto anche però la rabbia esiste. Cioè significa che. No, questa qua non l'ho detta. Questa qua l'ho detta una tua collega quando ho commentato la cosa. Io dico che questo mi serve a me come consigliere per capire l'humus dei miei amici. Sapevo che poi prendesse questa deriva. Fa il sociologo, di essere chiari, eh? Chiedetemi qual è il mio vero pensiero sull'argomento. Scusami, però adesso con tutto il rispetto per carità, però se tu fai una considerazione sul terrorismo e non frega una mazza a nessuno, diciamola tutta. Se tu scrivi invece sono pronto a tagliare qualche testa islamica, è evidente che finisci su tutte le prime pagine dei giornali. Mi pare scontato non capirlo e dire chiedo scusa, probabilmente da oggi in poi lo capisco, su questo non c'è dubbio. Magari pensi davvero che si debba usare la scimitarra o il macete per... Conosci la mia storia? Non la conosco, mia vita, mi dispiace. Ecco, forse se allora tu ti informassi... Ma che faccio, il coso, sapresti, che faccio? Interessa solo quello... Ma scusami, allora, io posso conoscere la vita di Renzi, sommariamente, non posso conoscere la vita politica del signor Conti dalla Spezia, perdonami. Ma la vita non solo politica, ma anche quella privata, perché ma poi come c'è faccio? Una vita ma chi so? Ma ho capito, ma come fai? Però è vero che però tu pensi che io sarei in grado di fare... Ma ci sono le dichiarazioni? No, è una domanda! È una domanda. Ma chi è in grado di... Ma non esiste proprio. Io non ti voglio convincere. Ti penti o no di aver scritto? Senti, non è una questione di pentirsi, è che non ci credo in quella cosa che ho scritto. Era una provocazione. Non ci credi, era una provocazione. Si fa a dire che era una provocazione e pretendere che gli altri sappiano che è una provocazione? Se voi non capite. Siamo tutti coglioni, siamo coglioni. Me ne faccio una ragione, non è che mi dispero. Siamo tutti coglioni. Grazie, ciao. Cioè uno scrive che bisogna tagliare la testa agli islamici e poi se ne esce che è una provocazione. Dai, ragazzi. Io questa gente non la capisco. Ma perché uno se scrive una cosa del genere si dimette dopo due secondi? Ah, infatti, guarda, chiudiamo qui perché è inutile andare Sergio, avanti. Sergio, provincia di Napoli. Vai, Sergio, vai. Napoli, Sergio. Ciao Giuseppe. Senti, no, niente. Volevo solo dire una cosa, che qua l'ipocrisia regna sovrana. Cioè praticamente anche lo stesso Parenzo, cazzo, da un lato si dice i terroristi, condanniamo il terrorismo, poi quando c'è qualcuno che vuole, tipo, che ne so, cacciare via tutti gli islamici dal paese, si inalbera e dice no, queste sono cose. Cazzo, ma chiedi un po' a Parenzo che cosa hanno fatto se un palestinese si presenta al confine di Israele, che cosa cazzo succede? Gli sparano a 150 metri di distanza. Ma cosa vuol dire sparare? Cosa vuol dire? Vabbè, allora, i documenti, allora nessuno spara, allora cazzo, dire che noi così, comunque no, io comprendo la posizione degli islamici che ce l'hanno con gli occidentali, perché chiaramente noi andiamo ecco a bombardare, genio, andiamo a fare danni, andiamo a uccidere i civili, ci sono le foto dei bambini ed è chiaro ed è logico che questi qua siano incazzati, abbiano la posizione dici? Tipo quella che di mamma di Catania che abbiamo sentito ieri, Sergio, a Punta Colonna, no? Cioè è giusto che siano incazzati così, quindi noi siamo in guerra, io li comprendo la loro posizione e siccome siamo in guerra, noi siamo in guerra. Ma tu sei in guerra col cervello, tu sei in guerra col cervello, a dopo. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Cruciani, fatevi dare il numero di telefono dello spacciatore di Giulietto Chiesa, perché deve avere la roba veramente buona, se ve lo danno questo numero, se ce lo fate avere vi ringraziamo. La Allora ragazzi, oggi abbiamo cambiato musica finalmente, eh? Si torna alla normalità, caro Parenzo, si molto torna bene, alla normalità. No, normalità in questa trasmissione non esiste. No, la normalità della zanzara, che è una normalità tutto particolare naturalmente. Sì, ecco, e allora, a questo proposito, io voglio farti ascoltare quello che hanno detto gli amici dello Zoo di 105. Sì. L'altra sera sono andato a Tiki Taka, c'era anche Marco Mazzoli, siamo stati a cena dopo, c'era anche il signor Cairo, era una tavolata fantastica, c'era una tavolata in cui c'era signor Pardo, sono Marco Mazzoli, sottoscritto e varie persone, varie ed eventuali. Chi ha pagato? Chi ha pagato? Mazzoli signor ha pagato. Cairo, signor Cairo ha offerto tutto. Tu non paghi mai. Io mai. Tu mai, neanche il gesto. Ho offerto tutto il dottor professor Urbano Cairo. Vabbè, che so dobbiamo ringraziare. Contento che tu diffondi. No, così ma giustamente cosa, ha offerto. Voleva fare, è un uomo che non è che diffonde. Cioè no, quello assolutamente, che fa, per che... carità. No, ma non volevo dire. Ma sei tu che me l'hai chiesto. Chi ha pagato? Io ho detto la verità, se no non lo dicevo. Scusa. Allora, è una persona generosa. È uscita fuori una roba che Mazzoli ha raccontato l'altro giorno allo Zoo di 105, perché noi ieri abbiamo parlato delle stragi eccetera eccetera, non abbiamo potuto parlare, come dire, della mia famosa proposta, chiamiamola così, 200.000 per la virginità anale, no? 200.000 sì, euro. Sì, proposta che sta riscuotendo un certo successo, siamo già arrivati a quota 70.000 euro. No, chi l'ha detto, scusa, che siamo arrivati? Ho tu dici il crowdfunding, come si dice? Ho lanciato il crowdfunding con un amico che ha una società di cui non dirò il nome. Dice che siamo però attenzione, siamo andati oltre, perché c'è una proposta pare concreta che nei prossimi giorni verrà formalizzata. Sì, ma non c'è poco da ridere, no, poco da ridere, da parte del professore, maestro, presidente tuo, tra l'altro tuo, uno dei tuoi datori di lavoro, insomma, dottor Cairo, sì, mi alzi nonché, i piedi quando alza di piedi subito, nonché presidente del Torino, il quale ha detto, ma lasciamolo raccontare a signor Mazzoli, va, signor Mazzoli, Zoo 105, vai. Sì. Ti dico solo che ieri sera a cena a un certo punto viene fuori il discorso di Cruciani che ha detto: metto in vendita la mia virginità anale per 200.000 euro. 150 l'hai lanciato. No, la riporto a galla e vedo che il signor Cairo gli si illuminano gli occhi. Beh, sai, questi egiziani. No. Ah, no, è Cairo. E dice: ma 200.000 te li metto io, però ti fai scoppare da chi dico io. Cioè, un giocatore, da quello che ho capito, sai, io di calcio non so un cazzo. Ma posso rilanciare? No, scusa. No, ti fai. Ma per quale motivo? Allora, signor Cairo, che Paolo Nois voglia rilanciare. Io rilancio 150. 150.000 ti fai scopare il culo da chi faccio anche lui. Il massaggio scrotale mentre sono a pecorina. Prima guarda la figurina del calciatore. Cioè mi allungo il braccio. Guarda che il giocatore che vorrebbe usare è di colore, pare che abbia un fucile canne mosse. Lo faccio impazzire. Lo chiamano Lazzo. Allora, caro Parenzo, mi pare un'augusta conversazione questa. Alto livello, eh? Alto livello. Allora, ti dico solo una cosa: è stato individuato, pare, anche il calciatore. Questa è una notizia bomba. Ragazzi, un calciatore. Strano che il direttore Roberto Napoletano non l'abbia messa in prima sul Sole 24 Ore. Strano questo. Molto strano. Siamo qui, 800 24 00 24. Mi è venuto a trovare un signore, caro Parenzo. Ma scusa, mi leggo qua una cosa su Dago Spia. No, ma stai, ma che me ne frega di quei gossip? Il conduttore Cruciani si è fidanzato con Francesca Cheyenne, storica voce di RTL. Il loro rifugio d'amore è una lussuosa beauty farm a Bormio. Lussuosa, non lissuosa, lussuosa. Ma è vero, già il fatto che mi attribuisco una lussuosa residenza a Bormio, sì, avrà pagato a questa Francesca Cheyenne. Ma è vero? Ma quale? Ma quando il loro rifugio d'amore? Ma lascia perdere tutti i gossip. Mi è venuto a trovare un signore che è un ristoratore, nonché anche un allevatore. Ma ragazzi, ma lo fate entrare o no da questo ingresso qua? Che casino sta succedendo? Allora, un signore viene qui con un agnello. Un agnello in studio vivo. L'agnello. Beh, è meraviglioso. Sai, volevo portarlo alla 7 l'agnello. No, ma è meraviglioso, guarda che cos'è, è fantastico. Stiamo riprendendo tutto, un agnello fantastico. Ma c'è un agnello vivo in studio? Ma sì, un agnello enorme, pesa anche una quindicina di chili. Ma è vivo? È vivo. E cosa dicono alla Confindustria? Ma che cazzo me ne frega a me di che dicono? Ma che mi interessa, io devo fare la trasmissione. Non è che posso pensare a quello che dicono la Confindustria. È poco consono agli obiettivi che abbiamo. Vabbè, intanto fammi sentire, prima che entrano, fate entrare tutti, perché qui è complicato. Ma anche l'agnello, come fa a entrare l'agnello? C'è una gabbia, c'è un agnello in una gabbia. In una gabbia, in un'enorme gabbia. Lasciatelo libero, no, di scorazzare per l'ufficio di Barisone. La cosa che volevo capire era questa: a me, guardando un agnello, mi intenerisco oppure no? Cioè, provo un moto di simpatia automatico, no? Quel moto di simpatia che i vegani vorrebbero provocare quando portano gli agnelli in giro per una città. Questo è il punto, capito? Cioè, il punto è solo questo: mi intenerisco o non mi intenerisco? Perché questo qua è uno degli agnelli che verranno adesso macellati, nel futuro verrà in qualche modo cucinato successivamente. Noi vogliamo mantenere l'agnello come cibo degli italiani. Ci opponiamo a questa campagna vergognosa fatta dalle associazioni animaliste, per carità legittime, però a mio parere vergognosa, eccetera eccetera. E allora voglio vedere se un agnello mi intenerisse, cioè se mi provoca qualcosa, perché quelli che continuano a mangiare la carne devono essere non devono essere ipocriti. Cioè devono essere no, a me è un po' intenderissimo, no, se lo vedessi in trasmissione, lo accarezzassi, poi non vorrei. No, ma non possono essere ipocriti, cioè non ci vuole l'ipocrisia. Chi mangia la carne deve dire io sono consapevole della sofferenza degli animali, sono consapevole della morte degli animali, e però me ne frego. Cioè alla fine, perché è normale che sia così. Altrimenti se uno dice no, mi intenerisco, no, però non voglio vedere, allora sei ipocrita. Ma se tu vedessi quell'agnellino che adesso è lì con te macellato, ti farebbe impressione poi mangiartelo? Se vedessi, no, la macellazione, no, ma sarei un ipocrita, no. Se fosse così sarei un ipocrita. Facciamo l'ingresso, eccolo qui in braccio, non è che è pericoloso, no? Non è pericoloso, no, si metta lì al microfono. Mettiti al microfono, come ti chiami, che non mi sono scordato? Marco, metti, parla bene. Ma cosa fa sto Marco? Eccoci qua, Marco, parla bene davanti al microfono, l'agnello non può parlare. Come? Beh, barbone, grande barba. Quanti anni hai, Marco? 64. Ma che, sei proprietario di un ristorante? Sì. Dove? Ad Arlate, la trattoria al Bosco, Club Amici della Costata. Ragazzi, andate tutti lì, naturalmente. Fanno un agnello favoloso, immagino, anche, agnello, no? Agnello, ma soprattutto le costate. Costate, dunque, tu sei un carnivoro, un grande carnivoro, diciamo la verità. No. Visto il peso? No, ma sì, no, il peso che c'entra. Con la carne normalmente non si ingrassa, non si dovrebbe ingrassare tantissimo. Senti, come li consideri i signori vegani? Bah, secondo me stanno facendo una politica inutile. Cioè? Cioè, senti, ognuno deve mangiare quello che le piace. Chi vuole mangiare un agnello, mangia l'agnello. Chi vuole essere vegano, fa il vegano. Ma senza fare tanti casini. Senza romperci troppi coglioni. Sì, diciamo. Allora, questo agnello, quanti chili pesa? Questo qui è 16 kg. 16, non è che lo stai maltrattando, non è che ci becchiamo una denuncia di maltrattamento, no? Io li tratto bene. Li tratti bene, no? Li tratti come i tuoi figli, diciamo. Come no? Le mie figlie. Come le quante figlie hai? Tre. Salvo che poi. Ma questa che è femmina, che cos'è? Sì, è una femmina. È una femmina. Ma non è che come le figlie, cosa vuol dire come le figlie? Non è che la figlia la manda al macello, poi questo qui, che discorso è come le mie figlie? Ti piacerebbe darli? No, che ne so, chiamiamolo, che nome ha? Non ha un nome? No, non l'abbiamo ancora battezzata. Non l'hai ancora battezzata, che ne so, Zanzara non si può chiamare. Zanzara. Viola, no, mia figlia Viola, no, non si può chiamare. Zanzara va bene. Zanzara, sì, Zanzara. Zanzarina, via, Zanzarina. Dai, chiamiamola Zanzarina. Fra qualche mese. Se fosse stato un maschio avremmo potuto chiamarlo come nostro direttore. Aspetta, devo mettere la cuffia, se no non sente niente. Mettete la cuffia, ragazzi, se no non ti sente quando parli. Eccoci qua, Parenzo, lo conosci? No, Parenzo? Parenzo, sì, lo conosci, signor Parenzo. Conduce anche sulla 7 in televisione. Siamo mai visti. Sta dicendo che poi alla fine il problema è che tu dici di amarle come le figlie, no? Però poi le figlie non vengono macellate. Diciamo che ognuno nasce ha un suo destino. E lei ha questo destino? Questo destino. Dunque a te non ti fa impressione il fatto che dopo tu sei stato anche uno di quelli che ha macellato degli agnelli, no? Certo. Quando spezzi quelle gambe, no? Che impressione ti fa? No, niente. Nessuna impressione? Nessuna impressione, perché questo... È il loro destino? È il loro destino, è il mio lavoro. Dunque tu le ami, ma nello stesso tempo le uccidi. Le macelliamo, non le uccido. Vabbè, sì, amico. Uccidere è una cosa, macellare è un'altra. Allora, nome e cognome subito. Nome e cognome tuo, nome e cognome. Marco Mappelli. Marco Mappelli, nome della cosa, che nome diamo? Allora, Zanzarina. Zanzarina. Zanzarina, quanti mesi sopravviverà questa? Questa signora? Settembre. Settembre la facciamo fuori? Settembre sicuramente. Settembre già è morta, capito, Parenzo? Mi fa impressione, capito. Guarda, è molto bella. Adesso è un po'. È molto bella, è molto calma, eccola, è molto brava. Fatemi vedere che qui c'ho il computer qua davanti. Prego. Eccola qua, bella, bella, bella amica, bella, bella. È bella, non c'è niente da fare. È una bella. Zanzarina. È bella, però non mi fa nessuna impressione. Quanti anni ha? Questa è anni. Nata a dicembre. Adesso? Al 19 di dicembre è nata. L'agnellino. Beh, a me un po' di impressione fa. Fai una foto, mettila su Twitter, adesso la guardo. Ah, perché tu a Roma non vedi un cazzo. Sono a Roma, non vedo niente. Sì, è vero. Allora, la questione è molto semplice. Non mi sono intenerito di fronte a questo agnello. Non mi sono intenerito. Cioè, è molto bello questo agnello. Questa agnellina. Qui al mio fianco non ho un agnello, ma ho Sara Giudice, che forse conosci, che ti voleva salutare, che è venuta qui. Sì, vabbè, chi ma se non ne è frega un adesso, no. Come chi se ne frega? No, vabbè, la saluto anch'io, la abbraccio. Sì, vabbè. Vieni, fai la saluto. No, no, aspetta un attimo. Fammi dire ciao almeno. Fammi accarezzare l'agnellino un attimo. Ciao, Sara. Questo accarezza l'agnellina. Però è bellissima, per carità, è tutto bello, però poi alla fine ha ragione Marco quando dice il destino è quello là. Ma fa impressione però l'idea che adesso come tu si hai macellano gli agnelli, come si macellano? Come si macellano? Spiegami, tu l'hai macellati, come si macellano? Dimmelo in maniera cruda, normale. No, gli si dà un colpo in testa con una pistola a questa testolina qua? A questa testolina, con una pistola che entra dentro pezzo di qui nella testa e poi dopo naturalmente lì si scanna, si taglia il collo. Si taglia il collo. Sì, ma chi si impressiona e continua? Però, allora, scusa, fa impressione anche a me che mangio l'agnello. No, ma non fa schifo, perché se ma tu fa impressione, ma tu lo ovvio, mangi dai, l'agnello, non puoi essere ipocrita. Ma certo che lo mangio, ma adesso mi fai, mi porti l'agnellino, mi porti lì in studio e gli dà il colpo in testa, mi dispiace. Ma che c'è, no? Il colpo in testa mica glielo diamo qua. Cioè, ho capito, ma l'idea che questo qui dice la zanzarina, le voglio bene come le mie figlie. Ma questo è matto, scusami, sarà anche il tuo amico. Matto, scusami, sarai te. Io non sono matto. Ma ha detto lei che come le sue figlie, amico mio. No, forse ama, ci siamo capiti. Come li vuole bene. Io ho detto che quando vivono li rispetto. Io quando l'animale vivo, che sia il maiale, che sia l'agnello, che sia il bovino, che sia quello che sia, io quando lo allevo da vivo lo rispetto. Poi dopo, quando è il momento, li facciamo fare la fine che loro sono destinati da fare. Chiaro. E sono due cose ben distinte. È inutile che ti scaldi, inutile che dici oddio mi dà fastidio vederlo, mi impressiono. Dopo che tu ti dà fastidio, a me proprio non mi interessa. No, non gliene frega niente. Non me ne frega niente, uguale, hai capito? Ognuno fa il proprio lavoro e io faccio ragazzi, questo. Ragazzi, pubblicità adesso per qualche minuto, speriamo di tenere a freno la mitica agnellina zanzarina, che a settembre già non ci sarà più, però a noi non fa impressione questa cosa, perché noi siamo coerenti, noi siamo, non siamo ipocriti, non ci lasciamo impressionare dagli agnellini per dire basta stragi, non c'è nessuna strage. A tra poco. Siamo ad alti livelli qua, JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Ho un dubbio omletico, ma i vegani si fanno togliere i canini quando vanno dal dentista? Eccoci qui nella trasmissione, forse possiamo definirla così, Parezzo, io non ho nulla contro i vegani, quelli veri, quelli sinceri e non quelli fondamentalisti, insomma ci siamo capiti, no? Però questa non c'è dubbio che sia la trasmissione più anti-vegana d'Italia, insomma diciamola tutta, no caro Parezzo? Trasmissione per carnivori. Ma non solo per carnivori, sennò limitiamo il nostro mercato che è ampio e deve allargarsi sempre di più. Facciamo un piccolo riassunto, tu sei molto impressionato da questa cosa. Molto, sì, no, sono sincero, veramente. Ma da che cosa vedendo sei impressionato? Vedendo le foto che stanno twittando e che sto seguendo qui da Roma, sì. Sono impressionato da quella adorabile capretta. Molto carina, molto simpatica, soprannominata Zanzarina. Mi fa un certo effetto, guarda, sono molto sincero, mi fa un certo effetto sapere che verrà scuoiata e nonostante io, forse sono un ipocrita. Macellata. Sono un ipocrita, però mi fa impressione questa. Hai detto sì. La cosa buona di oggi. Allora, ricapitoliamo. È venuto qua un signore che è molto simpatico, che si chiama Marco Mapelli, molto che ha un ristorante molto comunque. Molto simpatico, te lo dico io, anche perché ha proprio in mano un odore, cioè puzza un po' come me. Quanto ti lavi tu, Marco? Scusa, pochissimo, diciamo la verità, molto poco. Il necessario, cioè una volta a settimana, la doccia. Ma quanto la volta? Comunque, la doccia quante volte la fai? Una o due la settimana. Che è normale. Cioè, tu puoi immaginare domani Barisoli, odore di campagna, studio. Odore di campagna di terra. Di stalla, bravo. Ma capito, non è che si può fare anche la doccia, non è che non ci sono le docce uscite dalla stalla. Come mai uno due volte a settimana ti dà fastidio l'acqua addosso, vero? Un po' fastidio ti dà. Ma non ti piace particolarmente, diciamo la verità, barbone. Quanto lungo. È necessario, dai. Quanto è necessario, dai. Quasi. Vabbè, ragazzi, se vi piace la tosseria, va bene. Sembra quasi un homeless, è fantastico questo barbone bianco enorme, un homeless. Però invece è il proprietario di un ristorante che si chiama, lo voglio sottolineare anche per gli amici animalisti, Al Bosco Club Amici della Costata. Tutte le carni si possono mangiare. Se ti chiedono un piatto vegano, che fai? Sono molto in difficoltà. Vai da un'altra parte. Di solito quando arrivano da me, al 90% è una bella costata, una bella fiorentina. Non chiedono la verdurina. Difficile. Anche magari come contorno. Certo. Come contorno, però la cosa forte, diciamo. E ne facciamo parecchie anche di verdurine. Allora, questa magnifica agnellina che è guarda qui, che è bella. Molto simpatica, bella. Calma. Però, amico mio, gli dai una pistolettata poi a un certo punto tu. Ma come sei cattivo? Perché metti sempre il puntino sulla I? Perché è la verità. E ci penseremo a settembre, a dai. Tu hai spiegato come succede poi. Tu sei uno di quelli che fa la macellazione, no? Pistolettata, poi il colpo sul collo, no? Vabbè, una pistolettata. Va bene, come la vuoi chiamare? Sì, pistolettata. Poi il collo viene storto, che succede? No, viene qui, viene tagliato. Viene tagliato. E poi le gambe? E poi muore. E poi dopo si comincia a scuoiarla, sì, e togliere gli anteriori. E... Quanto peserà quando... Questa morta sarà dai 9 ai 10 kg. E quanta carne si fa? 10 kg di carne. Adesso è 15-16 kg. Dunque, 15-16 kg si fanno 10 kg di carne. 9-10 kg di carne. Cioè, quante porzioni di agnello? E lì dipende più o meno quante porzioni di agnello saranno. Si farà, che ne so, una cinquantina di porzioni. No, 20. 20 porzioni di agnello. Cioè, 25. Questo zanzarina vale 20 anche porzioni in di agnello. Noi diamo le porzioni abbondanti. Capito, Parenzo? Sì, no, capito. Ti senti un assassino, come dicono i vegani? Assolutamente. Assolutamente, anche perché, torno a ripeterlo, io le bestie e gli animali che ho, le rispetto. Beh, le rispetto, gli diamo da mangiare, gli diamo da bere, non le picchiamo, le trattiamo come vanno trattate. Vabbè. Poi dopo, signori, quanto costa una cosa? Io volessi comprare zanzarina, quanto mi costa zanzarina? Ma sulle 120-130 euro. 120-130 euro, capito, Parenzo? No, mi fa impressione, ragazzi, che vi devo dire? Mio grande rispetto per questo tuo amico con la barba, quando puzza e non si lava, che è orgoglioso di puzzare. Adesso che puzza, che non mi lavo, ma no, come la metti carità, giù? Ma è bravo, dai. Rispetto, ragazzi, figuriamoci. Come però, sei? Far passare per normale tutte queste robe qua. Ma è normalissimo. Questo sì che è normale. Che uno conosce la capretta e poi dice: un agnello non è una capretta, un agnello, una pecora. Quando sarà il momento. Arrosticini vengono fuori. E che beh, poi anche arrosticini. Anche un po' anche dispiace, mi fai, come io se dovessi anche assistere. Perché sono convinto che te piacciono tanto, eh? Ma io li ma io sì, li mangio, però è ipocrita, sono un ipocrita e si intenerisce per la l'ho detto, già ammettono, già sei su un buon passo, dai, via. Oh, zanzarina. Devo dire che zanzarina è straordinaria. È un po' puzzolente anche lei, però è normale. Vive in una stalla. No, fuori. Insieme a tante altre pecore. Tu hai mai tante... dormito con una. Dormito, insomma, accanto? Sì. Sì. Tanto puzza per puzza. Che te d'altronde, la stalla è la stalla. Normale anche dormire con gli animali. Vabbè, ma no, è normale. Fate passare qua dentro delle cose. Questa è la vita. Dormire, ha detto dormire e basta. Specifichiamo. Cioè, lei dorme nella stalla alle volte. Beh, sarà successo. È successo. Marco Mabelli dorme anche nella stalla. È successo. Va bene, successo. Ragazzi, tutto normale. Dai, ma sì, ma questa è normale. Questa è la vita veramente normale. Sono cose normalissime queste qua. Sì, sì. C'è di ma peggio. Questo credimi. È veramente normale, Parenzo. Perché dici che non è normale? No, no, d'accordo, ma avrà anche una casa, no? Dove andare? Certo. Dove nella stalla. È una moglie. E delle figlie. Vabbè. Allora, se un vegano viene di fronte a te e ti dice tu sei un assassino, uno che tratta, quella roba lì è uguale a un essere umano e tu non la puoi uccidere, capito? Come rispondi tu? Bah, non saprei cosa rispondere, non è mai capitato, ma io non mi ritengo un assassino, quindi... Guarda che roba che è. Non mi interessa, non le do peso, anche perché sono sicuro che da me... Non penso che vengano a dirmi una cosa del genere. No, te lo dicono, non ti preoccupare. Sì, adesso te lo faccio dire da qualcuno. Te lo faccio dire da una signora. Adesso la chiamiamo. Te lo faccio dire da una signora e ti darà dell'assassino. Poi ti lascio libero, perché questa poverina, altrimenti ci denunciano per crimini. No, hai fatto tutti i controlli prima di venire qua? Sì. C'è lì la visita sanitaria. Poteva uscire tutto regolare. Tutto regolare. È stata vaccinata prima di venire giù. Tutto a posto. Tutto a posto, tutta vaccinata, eccetera. Zanzarina, questa. Poi dopo vi lascio anche la coppia, così almeno siete a posto. Assolutamente, cari amici della Zanzara, abbiamo anche noi la nostra, fino a settembre, fino a quando non verrà macellata, la nostra, il nostro agnellino si chiama Zanzarina. Guarda che è brava che lei. Sì, bravissima. Pronto? Sì. Daniela? Ma sì, ciao. Aspetta un attimo, ferma lì. Togli viva voce un attimo e ti devo dire una cosa. Questa. Aspetta, Daniele. Daniela. No, viva voce. Ah, no, ok. Allora, ho un agnellino davanti a me. Un meraviglioso agnellino che verrà. È bellissimo, Però io non mi lascio intenerire, non faccio il trucco che fate voi. Solito trucco che fate voi di lasciare intenerire. Tu non hai cuore, Daniele, però non l'hai capito. Che avete? Tu non hai cuore. Ma che non ho cuore? Ho il cuore, lo riservo per altre cose, non per gli agnellini. Allora, cosa vuoi dire a questo signore che è uno di quelli che fa la macellazione, è uno di quelli che però dice che tratta gli animali molto bene, che rispetta gli animali e addirittura li considera quasi suoi figli? Che gli vuoi dire? Come gli vuoi rispondere? Lo ucciderei. Eh? Se fossi una madre o un padre, come può essere lui, io non ci verrebbe nemmeno. No, non sento. Avvicinati di più, dai, togli viva voce, togli quello che hai. Ma no, farvi la voce. Vabbè, allora? Ho detto, se io fossi il padre, come lo è lui in questo caso, non mi verrebbe mai in mente di uccidere un figlio, no? Quindi quello che dice è una verità stronzata. No, ma che c'entra il figlio, non il figlio? Sta dicendo veramente che sono destinati a morire. Diglielo tu, Marco. Chi l'ha detto? No. Allora, io preciso... Aspetta. Dove sta scritto? Dove chi l'ha stabilito? Chi l'ha stabilito? La natura, l'uomo, l'evoluzione, ma tutto. Ma la natura di che? Dai, su, mangiati un po' di agnello a Pasqua, dai. No, non me lo mangio l'agnello a Pasqua. Male, non sai cosa ti perdi. No, in realtà siete proprio degli ignoranti. Sì, noi siamo ignoranti. Vale. Noi siamo trogloditi. Sì. Noi siamo trogloditi, anche assassini. Ti devo ringraziare perché la parola ignorante mi mancava ultimamente. L'ho presa tante, ma non quella. Più ci si eleva intellettualmente, più ci si allontana da queste pratiche barbare. Ah, noi dunque siamo degli ignoranti che non ci eleviamo intellettualmente, allora, capito Marco? No, perché se... Allora scusami, perché non vivi nella caverna con la clava? Sono ragionamenti che non hanno senso, quelli che stai dicendo. Guarda, proprio oggi perché ho scritto un articolo in cui c'è scritto che tu sei vegana? Tu sei vegana? Sì, è vegana. Tu sei vegana? Ma io ti rispetto che tu sei vegana. Sei tu che non rispetti noi. Non vedi perché tu devi rispettare quello che io faccio? Ma io devo rispettare. Quando si parla di libertà e di rispetto dovete rispettare. Ma prima degli non esseri pensi che anche animali sono non continuando non sono delle cose, non sono degli oggetti. Scusami. Non hai il potere di decidere la vita o la morte di qualcun altro, dove qualcun altro, quindi qualcuno, no? Tu non puoi paragonare un agnello a un essere umano, a un bambino. Non è un bambino. Non è come mia figlia. Io vi rispetto, però voi Non è come mia figlia, ma l'agnello. Non è no. come mia figlia, capito? Non è come mia figlia. Non chiaro? A capire. No, scusami. Scusami. Posso parlare? Aspetta un attimo, fai intervenire Marco. Aspetta. Posso parlare? È l'assassino qua. No, scusa, se parli solo te. È l'assassino. Non lo so. Sono l'assassino. Posso parlare? Così mi puoi arrestare. Scusami. Dai, diglielo. No, scusami. Io ho detto. Che non le amo, io ho detto che le rispetto. Quando le ho stalle le do da mangiare, le do da bere, le accudisco, non le faccio mancare niente. Sì, servono anche per quello. Hai ma capito? Poi aprono le frutterie invece di la macelleria, ma lascia perdere. Invece c'è il ristorante di carne. Ascolta, vegan, dopo è inutile, tutti questi animali, se non li macelliamo, che fine prendete fanno? Indietro, eh? State ancora ai tempi. Scusa, della lui c'ha un ristorante di carne, che glielo vuoi far chiudere il ristorante di carne? Si può convertire, le cose sì, si convertire. Ma sì. Facciamo allora, tutti i vegani, dai. Sono diventati vegani al pianeta vegan, il pianeta vegan sì, facciamo sì, il pianeta vegan. Siamo allevatori che allora hanno ho capito una cosa, che voi volete avere ragione e noi abbiamo sempre torto. Complimenti, scusami, sei bravissima. La vita umana, non lo so, se tu ma mi dicessi... cosa c'entra la vita umana con un agnello o con un bovino o con un suino? E allora una fetta di salame non lo mangi te? Non hai capito che sono esseri senzienti? No, non lo mangi. Non lo mangi neanche quello, perché dice che l'agnello è come te. Mi sa che ti perdi tante belle cose. Ma perché gli dice che l'agnello è come te, capito? Ha lo stesso valore, la vita umana, la vita dell'agnello, valore della tua... di un essere vivente, anche il più quello che non ha la possibilità di allora, posso dirti una cosa? Con chi non vuole ascoltare non si può parlare. Boom. Viva scusami. Zanzarina! Dire, fai bene a allora, questa faccio zanzarina bene a fare qui, quello che mi do, aspetta, mi tocca Marco, fare. Questa zanzarina qui verrà, che si chiama la chiamata zanzarina, a settembre non ci sarà più. Io la amerò fin quando sarà viva e dopo sarò contento voi di mangiarla. Capite che proprio il fatto di non rispettare sì. Preservare sì. la vita, di essere così così sì, ma questo l'abbiamo capito. Hanno la possibilità di difendersi, ma che deboli, soltanto ma che perché non posso, non hanno il dono della parola, ok? Ah, beh, ti pare poco, e ti pare poco, e ti pare poco quello, e ti pare poco. Il germe dell'odio e della cattiveria umana, perché se tu non riesci a preservare la vita, che siamo come i nazisti? Esattamente sì, assolutamente. Siamo come i nazisti. Scusa, siamo come dai. Ma lasciamo Davide, stare. Davide, intervieni tu. Non andiamo. Ma io posso anche condividere con la Martani il fatto che se ma che c'entra voi nazisti? Ma dai. Ah, marchiati come gli ebrei, capito? Marchiati come gli ebrei. Vengono marchiati perché guarda, questa è marchiata, vedi? Eccolo là, eccola Marco. Fai vedere Marco. Marco sul auricolare e che dice quando è nata e tutto. E che è come ebrei? Ha un certificato. Questo corrisponde a un certificato. Hai capito? A fare un esperimento? Che esperimento? Me lo dici dopo. Ciao ragazzi, vi devo salutare. Ciao Marco, ciao, grazie. Ti ringrazio. Ciao. E i vegani che bruciano la legna come fanno a sapere che non c'è dentro il tarlo? La zanzara. Pollo e patate, sono fatte di pollo e patate. Sì, ho capito, ma non, è, non ti senti un po' tipo, sai, i vegetariani dice carne. Ma quella, cioè, che questi sono cadaveri. Cadaveri di, no, no, di carne, carne. Mo pollo, non è che è carne. Davide, devi vedere, devi vedere la scena. La scena della, dell'agnello che rientra nella gabbia, eh. Grande scena dell'agnello che rientra recalcitrante, un po' recalcitrante, non vuole entrare. Ma che impressione di cosa? Impressione. Che ti devo dire? Mi fa impressione. Corrado poi, da Milano, vai. Ipocrita, però mi fa impressione. Corrado, dai. Da Milano, 800240024. Corrado, vai. Perché quello che ha solo risposto. Corrado, vai, Corrado. Che ha tirato in ballo, che inizia a dire, ma adesso non c'ho voglia. Corrado, ma di che stai parlando? Corrado. Perché sennò ci si trova sempre nella posizione brutta. Con se sta parlando, te, del nulla. Se non vuoi. Dei cazzi suoi sta parlando. Tu tiri dentro e poi ti tiri fuori e rimango lì, senti, come un pirla. Corrado? Sì? Con chi stavi parlando? Con la tua fidanzata? Con tua moglie? Con la tua amante? Sì, con mia moglie. Mi ha fatto aspettare, Cruciani. Sono uno dei tre saggi che ti vuole difendere, con gli altri due mi fai aspettare. Ma non ho capito. Chi sei tu? Chi sei tu? Uno dei tre saggi. Ma saggi di cosa? Scusa, saggi. Io non conosco saggi, qui è un mondo di matti. Fino adesso no, abbiamo sentito. No, mamma mia. Di che cosa? Dimmi. Cruciani, sai già tutto, Cruciani. No, che so, cosa? Tre saggi di cosa? Io non li conosco. Io ricordavo allora, i saggi di Napolitano, allora, te lo ricordi quando facevamo lo scherzo a Coso? In Confindustria, sì, esistono tre saggi. Ah, ma tu dici quelli che. Ma la gente non sa queste cose, non le sa queste cose, che gliene frega? Quelli che ti vogliono cacciare, Cruciani, quelli che ti vogliono cacciare. Ma che cazzo me ne frega a me di quelli che vogliono. Ma nessuno vuole cacciare nessuno. Ma lascia perdere, ma che è uno dei tre saggi? Ma tu sei un coglione che parla e che chiama per cercare di mettermi in imbarazzo, cosa che francamente non ti riesce. Per cui. Ma fammi finire di parlare, che già mi dici scusa per il coglione che mi hai dato. Io sono il saggio che vuole convincere gli altri due saggi a non fare questa cosa. Fammi finire di parlare, Cruciani. Mi dai anche del coglione che ti arrivo dalla tua vabbè, parte, allora? Gli altri due. Allora? E allora volevo sapere cosa ne pensi di questa cosa. È diramata, io l'ho letta, no? Ma che cosa? Ma non lo so, sta parlando di una cosa uscita, una piccola notizia uscita su un giornale che ci vogliono cacciare. Che me ne frega a me? Ma che me ne frega? Ma non lo so, ma non mi occupo di queste quisquilie. Non mi occupo di queste quisquilie, non mi occupo di queste piccole notizie, non mi interessano, penso a lavorare. No, non ti faccio parlare perché non dici niente. Mi hai chiesto una cosa e ti rispondo. Zanzara, Cruciani, piace già dire. Volevo sapere. E allora bene, allora? Per il nuovo assetto di Radio 24 dicono, e io come un utente qualsiasi legge, tuo fan nel senso bene, della benissimo, e allora io ti dico, bene, se sei fan di questa trasmissione, se sei fan, no, non me la sto prendendo con te, ti sto dicendo, io ti ho risposto, Corrado, ti ho risposto, io ti sto dicendo di qualcosa, hai sentito benissimo, Parenzo, ma cosa vuoi che ti dica? Ma cosa? Se non me l'ha fatto finire. Allora, Corrado, va bene, d'accordo. Corrado, fermati un attimo, fermati. Allora, stai tranquillo, non succede nulla, sono solo chiacchiere e voci da quello da bar. Non ti preoccupare, stai tranquillo, ti abbraccio, ciao. Guido Bergamo, vai, Guido. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai, dimmi. Allora, siamo in merito alla telefonata del consigliere che diceva, ha scritto su Facebook che sarebbe pronto a tagliare teste per difendere i bambini, i suoi bambini. Non mi sembra così scandalosa come dichiarazione, tenendo conto anche del contesto emotivo tragico della giornata di ieri contesto e di quello che sta, che sta succedendo recentemente. Cioè, io ho due figli e al di là non ha scritto lo faccio per sport. Non ho capito, come il macellaio che lui non lo uccide l'agnello ma lo macella, che è una stronzata micidiale, ok? Lui ha semplicemente detto che se dovesse tagliare la testa degli islamici per difendere i suoi figli lo farebbe. Io penso che si può essere d'accordo tutto qui. Cioè tu sei d'accordo con quello, a parte che uno deve dire gli islamici quali, no? Cioè, si parla di terrorismo, poi non è che abbiamo... Mi perdoni, non si può. Non si può dire che i vegani sono coglioni, poi vedi, purtroppo ti è capitata male, perché io sono vegano, ok? Non si può dire che i vegani sono dei coglioni, ok? E poi mi viene... Beh, quelli che conosco io, la maggior parte di quelli che conosco io, ma sì, infatti, sono dei coglioni. Un sacco di vegani, ma io dico che un sacco di vegani non capiscono che ci sono persone che... Ma, questo che, cazzo, ma che c'entra questo con, che c'entra allora, questo col tizio di La Spezia che ha detto che vuole... Consigliere... Allora, ha fatto una dichiarazione, lo hai attaccato, ok? Secondo me, purtroppo, hai sbagliato, perché lui ha detto una cosa che tutti gli italiani pensano, per difendere i bambini, per difendere i tuoi bambini... Sei pronta a tagliare la testa? Ma non ha detto questo, amico mio, ma ce l'ho qua la cosa. No, cosa scrivi? Leggi, cosa scrivi? Leggi. Allora, sinceramente, non sono più giovane, ma se c'è da tagliare qualche testa islamica per tutelare i miei figli, per tutelare i miei figli. Sto dicendo, ma ho capito, ma tagliare qualche testa islamica, cosa cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Non vuol dire nulla. Islamica, ma vuol dire terrorista. Taglia pure la testa a un cristiano se vuole far male ai miei figli, non me ne frega un cazzo. Ho vissuto. Allora, il concetto, tu dici che per tutelare i miei figli, se mi viene di fronte un islamico, a parte che non vuol dire nulla, non è che si palesa, io, amici, si palesa con delle persone eccezionali, amici, non è quello il concetto. Lui, perciò ho detto sull'onta emotiva, ho detto che per difendere i suoi figli taglierebbe la testa a un islamico. Ha detto islamico perché in questo momento. Ma tu dici, siccome ha detto i figli, allora si può accettare. Fermi, però questo qua è da ragionarci sopra, è fermo. La zanzara. Cruciani, dimmi una cosa, tu che le conosci bene, ma quanto sono fighe le prostitute di fianco al sole 24 ore? Io non so quali prostitute ha visto questo qua, ma proprio non ci siamo, ti posso assicurare, non ci siamo. La maggior parte sono over, ma questo non significa nulla, naturalmente. Ma sono di una prostituzione strana, tra l'altro, qui sotto al sole 24 ore, Parenzo, perché io non è che conosca bene il mercato, naturalmente, ma già la prostituzione di strada è una prostituzione particolare, ormai, diciamo, soprattutto nelle grandi città, ridotta al lumicino, no? Sfruttate, vittime di miserabili. Non so se questi sono sfruttate, queste qua sotto al sole 24 ore, in realtà, lo sai che veramente non lo so. Sembrano lavorare in autonomo, hanno la macchina accanto, anche un macchinone spesso. Ma che vuol dire? No, non vuol dire niente, naturalmente, però non so se sono sfruttate, magari lavorano, magari sono ancora tra le poche che per strada lavorano in proprio, non lo so. Cruciani, c'è un grande dispiacere per le vittime degli attentati di Bruxelles, ma la vera domanda è: quali sono i giocattoli erotici che usava Pupo? Beh, amico mio, adesso veramente questo non lo so. Questo non lo so, nel senso che a questa ulteriore domanda che gli abbiamo fatto non ha voluto rispondere. Perché va bene raccontare un sacco di cose, però il dettaglio del giocattolo che gli serviva alla masturbazione non l'ha raccontato, caro Parenzo, se ti ricordi bene quella memorabile. Mi ricordo nel dettaglio. Intemerata, quella memorabile intemerata. Sei ancora un po' scosso da zanzarina tu, dall'agnello? Sì, no, molto, effettivamente sì. Guarda, avevo voglia di mangiarmi l'agnellino per Pasqua, ovviamente. E invece niente. No, lo mangerò ovviamente, però il fatto di zanzarina un po' mi inquieta, sì, effettivamente. Un po' ti inquieta, sì. E non l'ho pensa che non l'ho vista perché non sono lì in studio con te, quindi ecco, non però cerca di riprenderti, che abbiamo ancora. Sembrano passate tre ore. In realtà è passata. Ancora manca un'ora alla fine della trasmissione. Ti dico solo questo. Sì. Sembrano passate tre ore. Non so perché. Stefano dalla provincia di Pesaro. Vai, Stefano. Davide, buonasera. Senti, ascolta, dovresti spiegare alla comparsa che ti è lì vicino che anche una persona come me che non è vegana, che è carnivora, che probabilmente mangerà l'agnello a Pasqua, non necessariamente infierisce proprio con un modo così sadico parlando di cose normali che capitano tranquillamente, gli animali sono fatti per essere mangiati, ma debbono avere lo stesso rispetto chiunque essere vivente deve avere, anche sapendo che deve morire. Cioè, e allora qual è la mancanza di rispetto? Scusa. Ma che c'entra Davide? Ci sono anch'io, sono con me, lui, ci siamo certo. Tutti e due, non ho capito. No, ma ha ragione. Allora Davide, io lo so che... Ma Davide è un cazzo, che fai? Ti rivolge a lui e non a me. Parla solo con me, seleziona, ha ragione. Vabbè, quindi, allora... Non so se sarà facile, perché poi qui c'è tutto un discorso di odio, di tutto quello che vuoi, anche se mi auguro che quel signore che appunto che ti ha lì vicino, prima o poi sono certo scivolerà su qualche buccia di banane, probabilmente inevitabilmente si verificherà quello che avete ho sentito poco fa di questa notizia che lo vogliono cacciare o meno. Non c'è nessuna notizia, non esiste questa notizia, non esiste. Ma sono contento, Davide, io sono contento per quel signore, perché ognuno deve avere uno spazio, ci mancherebbe, però è stata veramente di cattivo gusto. E quindi se no, poi non parla se con te, da sede, quando effettivamente parlerete di insomma della cosa che ti ha impressionato di più? Cos'è che ti ha Stefano, vuoi parlare innanzitutto? Cerca di parlare meglio perché non si capisce niente. Metti un po' il microfono più vicino, togli viva voce innanzitutto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è ci sei? Il tono che è stato usato per poter dissacrare i vegani. È il discorso. Sì, professorino, sì. Non lo dovevo assolutamente affrontare perché, o perlomeno con quel tono. Il modo come vengono affrontate le cose. Il tono come vengono affrontate le cose, ho capito quello che dici. E la sua sensibilità è un compito arduo, ma il tono con cui vengono lui diceva una cosa anche vera, grazie caro. Che poveraccio questo Michele da Pordenone, lui diceva una cosa anche vera, cioè la sofferenza di questo agnellino, no? Ma chi dice io non sono ipocrita, lui dice anche lui mangia carne, mi sembra, scusa amico mio, ma io l'ho rispettato al massimo, l'ho accarezzato, ho detto che sarà la mia zanzarina fino al momento in cui non verrà macellata, e quel giorno lì sarà un giorno di grande felicità, perché significa che ha vissuto il tempo che noi decidiamo. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, magari sei un ipocrita, diventa vegetariano, mi fa impressione. No, basta, ma io sono il primo che ti dico che ad esempio non assisterei mai a una macellazione. Michele da Pordenone, vai. Michele. Buonasera a tutte e due. Dimmi. Mi piacerebbe entrare in conversazione riguardo appunto il vegano e l'antivegano, però volevo parlare di altro. Riguardo a Giulietto Chiesa e no, alla fine io non ho le competenze né le conoscenze per dare totalmente ragione a lui e a quello che lui sostiene, però alla fine il suo concetto di appunto ISIS come strumento per creare il terrore nell'EU non è così infondato, se guardiamo un po' le carte che ci sono in gioco. Cioè, che cosa? Non ho capito. Pensi anche tu che ci sia una spectra sovranazionale formata da pezzi di servizi segreti di vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, Israele, eccetera, che è praticamente una regia degli attentati? Pensi anche tu questo? È bello pensarlo. Ma che vuol dire bello pensarlo? È idiota pensarlo, no? È bello. No, è non idiota. È idiota, cioè ci sono vari fattori che è bello considerare per vedere questa cosa come veritiera, insomma. Vabbè, Michele, ho capito. Ciao. No, aspetta. E che mi devi dire ancora? Dimmi. No, più che altro il ragionamento è questo, no? E io mi piace metterlo in relazione a quello che forse adesso voi ridete troppo. Però... No, non ridiamo. Vediamo se ci fai ridere. Dimmi. Ok, però se pensate a Star Wars. Come? Guerre stellari, Star Wars. Abbiamo presente Star Wars, sì. Allora? Ecco, quello che succede nell'esalogia, nelle prime parti, degli agenti fanno innescare una guerra per fare in modo di creare un esercito. Sì. Okay? Ma cosa vuol dire? Fammi sentire. Il fatto è proprio questo, secondo me, è che almeno in relazione a quello che dice Chiesa, ovvero che si spinge da anni ormai alla creazione di un esercito europeo. Vabbè ragazzi, però non la facciamo complicata. Sei in grado di sintetizzare il tuo pensiero in 30 secondi oppure non sei in grado? Qui ci bisogna fare una specie di coaching. Uno è in grado di esprimersi in 30 secondi, bene, altrimenti via a casa, porta la di che stiamo parlando, se no? Michele, allora... Il concetto è questo, è che è molto più facile imporre attraverso il terrore che chiedere, tra virgolette, democraticamente i cittadini. Vabbè, ciao Michele, ciao. Viva. Allora, l'uomo che piange, l'uomo che ha pianto insieme alla Mogherini, io poi questa cosa del pianto non la capisco, Parenzo, ragionandoci meglio rispetto a ieri. Non c'è da ragionare, c'è da capire l'emotività delle persone, financo di le un lacrime ministro del degli esteri. Non dico europeo. Che ha ragione la Meloni, che si deve dimettere, però le lacrime del ministro degli esteri. Ma che c'è? Ma cosa che serve piangere davanti? Ma è la commozione di una donna che vive in quella città, conosce Bruxelles. Beh, questo di cui stiamo parlando. I ministri non servono per piangere. Ma sono delle persone. registri non servono per piangere. Quelli che si fanno i selfie davanti al Parlamento Europeo i vanno selfie, bene? Le foto. Quelli che si fanno i selfie con la... Non so di chi... Quelli che si fanno le foto davanti al Parlamento Europeo, davanti alla metropolitana di Bruxelles, chiuse, vanno bene? Si può discutere, quelle ma... vanno bene? Ma non vanno quelle bene. Vanno bene, invece il ministro europeo che ha avuto, conoscendo quella città, vivendoci perché il suo quartier I generale... I ministri non servono per piangere. Ma dai, non ma servono per piangere. Sono delle persone perché come non... gli altri. Scusa, hai criticato anche tu la Fornero quando si mise a piangere, no? Mi sembra che hai criticato sì, anche tu. Però, e sì, perché sì. Quello è diverso? Perché quello è diverso però, invece la Pogherini? Magari perché è amica morti. Tua? Forse no. Amica tua? Intanto la conosco, ma non è un'amica. Non posso dire che è un'amica, ma la conosco. Oh, ma abbiamo collegato anni. Dall'aeroporto di Francoforte un altro di quelli che si è messo a piangere, che è il tuo amico Buonanno. E tu hai considerato le lacrime di Buonanno peggiori di quelle diverse da quelle della Pogherini? No, io ho detto che può essere che quelle lacrime siano vere, ma avendo fatto essere. Buffonate, anzi, magari quelle saranno vere, ma avendo fatto buffonate fino al giorno prima, è chiaro peggio. Che tutto diventa teatro. Cioè non ci crede, capito? Parenzo non ci crede alle tue no, lacrime, Gianluca. Ho detto che può essere che quelle siano vere, quelle. Non hai detto ma così, viste comunque. I precedenti. Ieri ho detto esattamente così, uguale. Vai. Ciao Gianluca, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hai capito che ha detto Parenzo? Che può essere ma, che siano... Ma posso dire, ma sì, ma non ci voglio neanche di polemizzare su queste cose, perché è talmente seria la questione e talmente era il mio stato d'animo che credo siano inutili le difese per dire... Inutile. Vero perché, no, perché uno dice ti sei messa a piangere la mattina e ti sei messa a piangere il pomeriggio, questo l'ho notato pure questo io. È un dato no, di fatto. No, il pomeriggio, cioè, in realtà cioè, il pensiero, vedere certe immagini mi dà... ho capito amico mio, però... Ancora adesso se dovessi vederle mi commuove vedere gente... morta, mutilata, disastri. No, ma quello d'accordo, però guarda, uno quando fa il politico non è che si può fare influenzare, andare in televisione e mettersi a piangere per i morti. Questo te lo dico, perché altrimenti uno come te poi che no, dice vabbè, scusa, io penso di avere un cuore e, sì, un e cuore. Una testa, quindi mi è venuto, non mi vergogno mica a dirlo, cioè, se l'ho fatto è perché mi è venuto, ce devo dirti. No, ma che ne so, ma a me è impresso. Che affronti che tutte le pagliacciate di cui sei stato e sei protagonista, è chiaro che anche questa è sembrata una cosa a favore di telecamera, ecco, magari poi sarà vera, figuriamoci, io non lo so, non ne ho viste, non c'ero, non ho periti che possono indagare. Senti, ma se tu avessi davanti a te i responsabili di quella strage, che cosa faresti? I responsabili della strage di Bruxelles? Scapperebbe a gambe levate perché è un codardo. Ma perché no, perché sono tutti i guerriglieri. Tu sei proprio un perverso. Sono i guerriglieri conigli questi. Sono guerriglieri conigli. Questi sono guerriglieri conigli questi. Ti sta dando del coniglio, no, guerriglieri conigli. Vabbè, ma che me ne fotte di quello che dice Parenzo. Che dice andiamo in guerra, andiamo in guerra, andiamo in guerra con quelli degli altri, con gli eserciti degli altri. Veramente non è che siamo fatti tutti uguali. Io posso anche versare qualche lacrima e poi essere più forte, più coraggioso di qualcun altro che magari non versa lacrime e poi dopo fa altro. Se non lo cioè so. Le lacrime per la TV, dice, lacrime per la TV e poi... Questa è l'accusa di Parenzo, le lacrime da tastiera, no? Sì, ho capito. Beh, conoscendo lui, sì. Pensa quello che ha voglia. Che... Sì, allora io, guarda, non ho la capacità di piangere convincendomi di farlo. Mi è venuto alla mattina perché quando mi hanno chiamato ero veramente... come dire, in diretta su una situazione devastante . E quando invece il pomeriggio non è che ho pianto, mi è venuto il magone perché ho visto delle immagini. Vabbè, ma che faresti ai terroristi tu? Che cosa faresti ai terroristi? No, questi che hanno commesso la strage di Bruxelles, che ti hanno fatto commuovere. Guarda, in diretta nazionale. Intanto adesso abbiamo scoperto che uno di quelli che si è fatto saltare per l'aria era stato espulso dalla Turchia in Belgio e l'hanno rilasciato. L'altro vabbè, ma lasciamo perdere le considerazioni politiche, eccetera. Ma che faresti a questi qua? Li butterei in gattabuia per tutta la vita, cioè non, senza i processi non ci dovrebbe essere nessun avvocato, lo stato di diritto non esisterebbe, non dovrebbe esistere per quella gente lì. Io la penso così. Punto è finito, sono dei disgraziati bastardi che meritano solo... L'agonia. Ma allora, scusa, è un barbaro. Se è così andiamo di scimitarra, no? Se è così andiamo di scimitarra, cioè andiamo direttamente di ghigliottina. Cioè, se deve essere così. Certo, potrebbe tornare Robespierre. Però cioè non, questo non personaggio se... putrido che è un eurodeputato putrido, sta cioè. Putrido, fanculo, politicamente putrido, politicamente putrido, sta mettendo Parenzo, in discussione decenni di Stato di diritto che l'Europa difende e ha conquistato. Questo personaggio infimo sta mettendo in discussione una storia millenaria di diritti, di processi, di giusti processi. Questo poveretto, che gioca e specula su quei morti di Bruxelles. Altro che le lacrime da coccodrillo, quelle lacrime del cazzo da coccodrillo che va a piangere in televisione e poi mette in discussione i valori dell'Occidente, perché noi noi occidentali siamo meglio proprio per questo, non per Buonanno può andare in Parlamento da noi, pensa quanto siamo migliori degli altri, anche un coglione può essere eletto in Parlamento. Se non ti è bastato Massimo Fini, ci penso anch'io. Sì, Massimo Fini che la pensa all'opposto. Guarda, tuo pensa a te. Pensa uno a te. Dei tuoi ma parenti, cosa c'entra dei tuoi amici, cretino parli, ma che razza di paragone è? Ma tu saresti un politico, ma tu sei un miserabile. Un politico è uno che dice se capitasse a te una roba simile, ma tu sei un miserabile, non sei un politico. E diciamo che in Israele non ci vanno molto leggeri con gli attentatori. Ah, c'è la pena di morte? No. Ma che dite? In Israele c'è la pena di morte, c'è lo stato di diritto, ci sono i processi anche per i kamikaze che poi non muoiono nell'attentato. Se identificano un terrorista, ma mica lo uccidono, lo processano. No. Mandano un elicottero lì e bombardano. Ma lo processano, se lo catturano. Se lo catturano. Perché si perseguitano ancora i nazisti? Lo stato di diritto. Vengono processati. Anche ammazzati. Sì, dopo un processo però. Dopo un processo vengono ammazzati, semmai. Uno ce n'è stato. Ma poi io non parlo con te di questa roba importante. Ma che sei scemo proprio. Che ancora l'altro giorno gli ha fatto tirare via la medaglia a uno perché c'era ancora la questione di 60 anni fa. Ma perché? Non ho capito. Che succede? Perché dici che non è stato giusto il processo di Norimberga? Non ho capito. No, è stato ridicolo il processo di Norimberga, no? Cioè tu dici che i tedeschi continuano a dire io ho eseguito. E poi che cosa hanno fatto però? Cioè tu stai dicendo che gli israeliani hanno violato per cacciare i nazisti. Non hanno voluto neanche seppellire quel centenario lì a Roma, no? Pribke, sì, è stato Pribke. Tutto fatto tutta una cosa. Cioè tu stai c'entrano gli israeliani tu stai dicendo perché quello ma che c'entrano loro? Quello ma che era giusto? Tu stai dicendo, no, adesso per cercare di capire, sta dicendo che gli israeliani con i nazisti dopo 70 anni, dopo si sono comportati in un processo. No? C'è stato un processo. Ma c'è stato un processo per c'è stato un processo era una farsa un processo quello che cos'era una farsa Gianluca, non ho capito. Qua, ma non so che farsa che cos'era il processo di Norimberga. Mi stai dicendo che era una farsa. Noi abbiamo eseguito gli ordini, punto e finito. Vabbè, ma non ho capito. Finito. Ma si può ragionare con lo scemo simile. Che fine facevano quelle persone lì, no? Sì, però bisogna avere il coraggio di dire che allora bisogna giustiziare i terroristi islamici. Cioè, tu devi avere il coraggio. Ma sì, ma giustiziamoli se è il caso. Giustiziamoli pure. Ma che viviamo in un continente. Per fortuna, viviamo in una parte di mondo che le stronzate di Buonanno non sono iscritte in nessun paese. Per fortuna, questo è il punto. Per fortuna, siamo ancora civili, nonostante Buonanno. Per fortuna, quelli che sono stati mutilati. Ma questo è un politico. Beh, senti un po'. Guarda, allora, occupati della spigola e del pesce al Parlamento europeo. Non occuparti di cose serie. Continua a occuparti di cose del pesce al Parlamento europeo. New York, poi Madrid, poi Londra, poi Parigi, poi un'altra volta Parigi. Adesso Bruxelles, siamo ancora qua a discutere che cosa dobbiamo fare. Questi sono animali da annientare, da sterminare come i topi. Ho capito, sterminare come i topi con che cosa? Con i bombardamenti, con le ghigliottine, guerra, con i perché qua dobbiamo dire, intanto bisogna dire una cosa che tanti cagasotto, compreso Parenzo di sinistra, non dicono. Cioè? Questo sono terrorismo islamico, si chiama terrorismo islamico, chiaro, c'entra l'Islam, non che fanno finta di niente, questo è da dove arrivano dalla luna, no, terrorismo islamico, cioè una religione che è incompatibile con la nostra cultura. No, la religione è una cosa, terrorismo islamista, sicuramente chiaro? È un terrorismo islamista. Chiaro, non lo e non abbiamo nessuno. Mai sentito uno, e non voglio essere blasfemo, che si fa saltare per aria il nome di Gesù della Madonna, perché noi occidentali, noi cristiani abbiamo un altro tipo di mentalità. Va chiaro? Bene. Qual è l'unica religione che fa queste cose? L'Islam. L'unica religione è l'Islam. Ci sarà un problema, sì o no? Va bene, ciao Gianluca, ciao. Parenzo, ma perché urli sempre? Ma stai tranquillo, dai, per favore, cavolo, siamo in macchina, non ci urlare nelle orecchie. Dai, traffico. La Zanzara. Ragazzi, mandate in onda quello che ha detto ieri Adinolfi a Ballarò. Ha detto che l'attentato l'hanno fatto perché è Pasqua. Non c'è niente da fa, ha proprio sbroccato. Poi stava con un rosario in mano, o toccava o girava, ma boh. Andiamo a Taranto, Salvatore, vai Salvatore. Pronto, buonasera, mi sentite? Dimmi, dimmi Salvatore, dimmi. Buonasera Parenzi e Cruciano, vi saluto, io vi volevo... Parenzi e Cruciano, sì, storpia i nomi, vuole fare il simpatico, vai Salvatore, dimmi. Volevo riportarvi una notizia di oggi della Corriere della Sera. Pare che un'azienda di San Francisco, la Memphis Meat si chiama, ha prodotto in laboratorio la carne. Praticamente in futuro la carne si potrà produrre in laboratorio, quindi non avrà più senso uccidere gli animali. Volevo un la carne in laboratorio, questo. Amico mio, io leggo anche di aziende che scrivono sulle confezioni bistecca vegana, fiorentina vegana, sì, ma qui il arrosto è vegano, una vera e propria truffa. Capito? Una vera ma propria si tratta di cellule prese da animali ed è coltivate il muscolo da un ingegnere biomedico. Vabbè, amico mio, ma cosa vuoi che ti dica? A parte che le prendono dagli animali, dunque anche quello potrebbe essere considerato da qualche vegano purista una specie di delitto. Per vabbè, cui però noi non siamo da... vegani puristi, noi dobbiamo trovare sempre la come si dice, la verità nella guarda, nel non mento, credo alla cui... carne artificiale. Poi se assaggio la carne artificiale mi piace, perché no, amico mio? Comunque, ragazzi, in un mondo in cui gli animali praticamente non muoiono, non si può campare, come in un mondo in cui gli esseri umani non muoiono. Se noi non morissimo mai, se tutti non morissero mai, probabilmente non potremmo campare, non potremmo sopravvivere. Non c'è spazio, capito? Non ci sarebbe spazio. Ci troverebbero dei nuovi equilibri. Comunque non sarebbe più etico uccidere gli animali, perché se si può riprodurre una sostanza che ha lo stesso sapore della carne, senza dover fare degli allevamenti intensivi o uccidere gli animali, mi dici che senso avrebbe? Andiamo a Marco da Torino, vai Marco. Bellissimo, Radio Belva. Tolto. Cosa Radio Belva? Che c'entra Radio Belva? Ma che ha detto? Marco da Torino, vai Marco. Dimmi, Marco. Che palle si qua, madonna, sti vegani, porco Giuda. Senti una cosa, volevo dirti, devi dormire preoccupato. In che senso? Perché? Afri Acqua è il tuo incubo. Ah, il giocatore del Torino dice Afri Acqua. È lui, dici? Devi dormire preoccupato. Perché è dotato di pisello notevole. Siamo oltre i 30. Ma no, ma figuriamoci, siamo quasi al top. No, ma tu dici che siamo oltre i 30 là nel caso. Io non lo so parte se siamo. Dobbiamo ancora vedere Urbanetto, perché ci deve guadagnare anche lui qualcosetta, se no lui gratis per gratis non fa niente. Così ha detto. I ragazzi dello zoo hanno rivelato questa cosa. No. Noi del Toro lo conosciamo bene Urbanetto, quindi no, stai tranquillo. Che senso che non muore. Ma l'altra sera mi sembra un po' strano che abbia pagato lui, sicuro che ha pagato lui l'altra sera. Ragazzi, ha offerto una cena a 6-7 persone. Sempre lo fa. È stato un grandissimo, ma certo è normale che accada. No, normale. No, comunque, ma insomma, normalissimo. Comunque adesso ti tocca dormire preoccupato, perché se lui ti dà a fria qua in prestito sei finito, Giuseppe. Dici? Giuda, preparazione H tutta la vita. Allora, ragazzi, ma veramente siamo sui 30? Siamo sui 30? Porco Giuda, che roba. La terza gamba la chiamano. Ma come fai a saperlo tu, ma Marco? Guarda come chiami. Questo anche è interessante. Ma scusa, tu sei dentro le faccende del Torino, sei tifoso, Ascolta. Guarda un po' come cammina anche a Free. C'ha quel modo di camminare anche un po'. Ragazzi, se ci avesse veramente una bestia del genere, non è che potremmo andare in giro nemmeno a giocare a pallone, penso, o no? Ma ci sono anche le mutande contenitive, ci sono tante cosine che si possono usare. Giuseppe, dai, so. Dici? Comunque, stai in contatto con un Urbanetto, vedi cosa ti combina. Cioè, dici, devo stare preoccupato, dici? Io, secondo me, la notte comincerei ad avere qualche incubo. Ciao Marco. Mariella Siracusa, vai Mariella. Giuseppe, senti, io premesso che sono onnivora, che sono umbra come te, nipote di un cacciatore, ho mangiato tordonacci, piccionacci, peraltro vivo a Siracusa, so che anche tu hai vissuto a Siracusa, non puoi fare una cosa del genere, cioè non cosa? Puoi portare un agnello in trasmissione, dargli un nome, chiamarlo Zanzarina, io sarei in macchina, immaginavo questo agnellino, cioè lo voglio adottare, non è possibile, l'animale è animale, ma non ma vi fate intenerire, ma se così, se non mangi la... un nome, una perché cosa, no? Cioè... io l'ho battezzato. Ha, si può, ha una si sua può. È marchiato. Fa impressione, è marchiato. La gente normale fa impressione. Del genere. Quello non è più un animale, quello ormai è diventato, che cosa è diventato? Uno di noi. Ma è uno di noi, si chiama Zanzarina e a settembre non ci sarà più, verrà macellato. Ma qual è? No, no, allora io so come fare, mi trovo un terreno, una stalla, quello che voglio adottare. Va salvata, sì, è vero. Ragazzi, se volete prendervi Zanzarina, pagate 150 euro, 200 euro al signore che è venuto qui. Perché oppure... quando tu dai il nome, conosci, può sembrare esatto, cioè ma dare il nome agli ma animali, non mi interessa, siete ipocriti. E conoscerli ti crea un'empatia naturale. Ha ragione, io siete la capisco la signora. Ipocriti, siete tutti ipocriti. Io lo mangio l'agnello, e allora che cosa vuoi adottare? Non me lo puoi far immaginare lì di tenero. Esatto. Solo se te lo lascio immaginare. Tu togli quel velo di ipocrisia, solo se te lo lasci immaginare, solo se tocchi, solo se tocchi. Guarda, mia nonna diceva l'uomo è l'uomo, la bestia è la bestia, ma bisogna tenerli separati. Appunto, appunto, l'uomo è l'uomo, è quello che dico io, bisogna tenerli separati, l'uomo è l'uomo. Non puoi andare in trasmissione, prendere un agnello, chiamarlo Zanzarina. Ma come no, l'agnello Zanzarina che fino a settembre campa e a settembre... No, è diventata una mascotte, è diventato uno di noi, fa parte... No, non si può. Sì, ha ragione. Mariella, invece io... Ti seguo, sei crudele. Vabbè, ciao. Senza controllo sanitario. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Sentito nominare dal suo punto di vista Strada, cioè non mi piacerà l'equivalenza morale che Hitler e Maria Miriam è la stessa roba, cioè questa è l'equivalenza morale. Lamentandosi di Crozza, fa un parallelo tra Gino Strada e Hitler. Se tu fai lui Gino Strada dice che siamo tutti colpevoli, quindi nessuno è colpevole, quindi dobbiamo arrenderci e basta. Gino Strada come Hitler, dice Luttwak, perché Gino Strada dice che siamo tutti colpevoli, però Luttwak a un certo punto dice me ne vado perché Crozza ha fatto un paragone tra i bombardamenti e l'ISIS, che è un po' quello che dice Massimo Fini, che ha detto ieri da noi Massimo Fini. E voglio andare via, bere della vodka, perché ho sentito il tuo comico fare l'equivalenza morale fra i terroristi e i piloti. Se è così, dovrebbero arrestare i piloti che hanno bombardato questi vari paesi. Eccoci, 800-24-00-24, 393-71-71-701, il numero per i WhatsApp, mi raccomando, odio dire i numeri, ma è così. Donato, Donato da Varese, l'ho chiamato, caro Donato, l'ho chiamato, eccolo. Grazie, qui. Grazie, Cruciano, grazie Giuseppe. Dimmi, Donato, dimmi. Io, dimmi. Sinceramente, sono molto incazzato. Ma su che cosa sei incazzato? Oddio. Dai, dimmi su tutto. Aspetta, parla più forte, dimmi. Su tutto sei incazzato. Sì, mancava cioè? Il suo prima parere. Cosa, quel telese di merda, quel che si permette così di chiamare fascista. Le telese di merda vedono che l'Islam ci taglia la testa e chiama fascista qualcuno. Ma basta, ci ammazza i nostri connazionali, sì. E gli sporchi comunisti, cosa che cazzo fanno, chiamano fascisti. Ma ci come chiamano si fa fascisti. A dire così, quello di che telese? C'è, ma che dice questo? Allora, sciacquati telese, la bocca, allora, sciacquati. Telese non è nessuno. Allora, Telese sparisce nella sua nullità, ma io non voglio parlare di questa merda. Di Telese, non vuoi parlare di Telese, ma dietro può, la merda. Non c'è, io voglio poi non c'è, è ingiusto, di non c'è per difendersi. Dai. Miserabile, non c'è neanche per difendersi e rispondere alle tue stupidaggini. Dai, ti sto deficiente. Vabbè, allora, però non iniziamo così, vai, che volevi dire, dai. Donato da Vare, smailiminalo. Sto nemico della nostra Italia, allora. Nemico, sì. Questo nemico, questa vergogna di Israele. Questa è una vergogna di Israele! Questo miserabile che è a fianco, che peraltro lui è soltanto una pedina, è la vergogna. Ma perché? dell'Israele. Perché, di ma perché? Ah, la vergogna dell'Israele. Ma perché sarebbe la vergogna dell'Israele? Ma ti rendi conto? Allora, lui attacca Buonanno. Buonanno è un mio connazionale, è un italiano. Ma che c'è? No? Non è che tutti gli italiani vanno bene. Prescinde di che cazzo sia Buonanno. Io voglio sapere lui perché. Se cerne quell'odio tremendo contro un sindaco e non contro chi ha dichiarato la nostra dipartita. Allora, noi non abbiamo una guerra. La nostra guerra è già finita con 42 milioni di islamici in Europa. La nostra guerra è già finita. Tu mi devi far incontrare il più grande imam della terra, al quale devo fare 10 domande. Aspetta, queste 10 domande mentali, allora queste 10 domande devono essere. Allora io rispetto l'Islam. Ripetiamo, io rispetto l'Islam. Non mi sembra che rispetti l'Islam. Malattie scusa. Mentali croniche, non mi malattie psichiche gravi. Eccolo qua, la Fondazione Mausoleo. No, però no, il tema delle malattie mentali indica diversi disturbi. Davide, vuoi stare zitto un attimo, se no non si capisce. Allora. Scusa, sto cercando malattie mentali gravi, scusami. Allora io star zitto questa volta. Malattie mentali. Allora io dico una cosa, Donato, 42 milioni di disturbi mentali e telefonate, cioè, eccolo qua, il legame tra disturbi mentali e patologia, eccolo qua. Allora io Merda, siamo finiti, ma non hai più il legame non tra malattie allora, mentali noi, il futuro, tra disturbi mentali e malattie non ce le sì. puoi ipotecare nemmeno Dio adesso perché siamo completamente fottuti. Voi state in radio come delle brave persone, ma è già finito. Ma io non ho capito, tu attacchi Varese, tu hai attaccato Parenzo perché se la prende con Moranno Varese, invece Davide, però non capisco se no non capisco no non capisco no non riesco a parlare psichiatrico Varese psichiatrico dai una scarpata in faccia che rivendichi 12 milioni italiani. Centro psichiatrico di Varese, ecco, centro diurno di Varese, servizio informativo psichiatrico, che lo chiamo, è un soggetto che non esiste. Non esiste. No, però di psichiatria e tossicodipendenza Varese, ecco qua, scrivi Varese. Via Maspero 22 0332, ecco. Virus che non si vedono, ma ti portano al cimitero. Questo qui non esiste. Dipartimento di salute mentale di Varese. Pronto? Aspetta che lo chiamo un attimo. Questo qui non serve a nulla, come non serve a nulla. Però scusami, tu gli sto chiamando in viva voce, tu gli rimproveri, aspetta, tu gli rimproveri che cosa? Tutte le cazzate che ha detto Fini. Eccolo qua, aspetta. Ma tu hai detto delle grandissime cazzate. Chiamiamo il centro psichiatrico di Varese. Aspetta. Raccontare quelle cazzate su che cosa? Squilla perché sì. Però sì, scusami un attimo, scusami un attimo. Sì, ma chi stai chiamando? Non ho il centro psichiatrico di Varese. Ma dai, qua, su. Sì, sì, sì, aspetta. Dagli una sì. scarpata in faccia. Ecco, però eccolo. Dagli una scarpata in faccia, dai. Pronto? Contento. Pronto? Salve. Allora, è Radio 24, c'è un'emergenza, c'è tal Donato da Varese. Ah, lo conoscete già. Lo so, sì, sì, sì, è un caso. No, perché sta chiamando ora in radio, però oggi è particolarmente agitato. Ma come ah, può non avete più la medicina. Ma come, si può, come può uscire? Senta, certo, vi diamo l'indirizzo, certo, però se può intervenire, Franco, perché lo vedo molto agitato. Un certo è normale Franco, che faccia sempre... Ma lo conoscete, Massimo Franco? Ah, è normale perché ha uno spasmo. Ho capito. Ho capito. Stampa, e come conosce? Si può no, calmare? No, per il Corriere, non è per la stampa. Va bene, però, grazie, grazie. Vabbè, scusami. Donato. Il giorno dopo l'attentato ha detto... Sì. Bisogna fare un'analisi corretta di tutto quanto sia capitato a Bruxelles. Uomo di merda! Ci sono stati dei figli da là che hanno fatto saltare mezza Europa, ma lo faranno anche dopo domani. Ma lo faranno ancora. La cosa mese. Che voglio capire, tu rimproveri a Parenzo il fatto che ha attaccato Buonanno, invece dovrebbe attaccare di più gli islamici. L'Islam. Dovrebbe attaccare l'Islam pericoloso che abbiamo in casa. Io voglio sapere, gli islamici che cazzo sono venuti a fare in questa Europa? Vabbè, 42 milioni! Andate nelle Lega Araba, andate nelle Lega Araba e vedete se trovate 42 milioni di cristiani o quanto lui di europei. Questo è vero, non però. Non si fanno entrare! Questo è vero, però. Questo non è vero. Mai costi- loro non avrebbero mai istituito un male nostro per accogliere i cristiani qualora si possono trovare anche in fase guerre. Questo è vero, l'altro dice anche questo è vero. Ma quanti seguaci hai? Se le sarebbero mangiati i gabbiani, le nostre battaglie, se le sarebbero mangiati i gabbiani. Scusami. Renzi deve morire. Vediamo. Io ho come che c'entra che deve morire Renzi adesso? Si trova questo qua al volo. È un assassino. Renzi, un assassino. Vediamo come si chiama al volo. Quando Renzi dice noi abbiamo perché gli italiani, sì, perché gli italiani, vediamo se trovo sto psichiatra al volo, perché è grave la situazione. Tutti quelli che hanno fatto gli attentati erano europei, ragazzi, erano europei. Uomo di merda, perché hanno, vediamo un attimo la dottoressa. Però Donato scusami centro. Un attimo, se ti chiedo una cosa, capisco che tu sei un po' colpito dagli attentati, no, lo capisco che sei, guarda che io sto mettendo a repentaglio la mia vita, lo troviamo subito, in che senso? Figura che hai a fianco a te, che può dottore, nessuno gli spacca la faccia, dottore, scusi, è in diretta, dottore, a me hanno sì sì, è in diretta la radio, lei è lo psichiatra, dottor Romano, scusi. Ciò in diretta, Donato da Varese che sta esternando. Dottore, cosa dobbiamo fare? Uomo di merda! Sì, è Donato da Varese, è in diretta. Cosa possiamo fare? Sta molto male perché continua a delirare. Aspetta, che medicinale gli diamo, dottore? Sì, mi passi la psichiatra subito, la dottoressa Maura, per cortesia, grazie. Aspetta, stai zitto un attimo. Sì, grazie. Chi c'è? La psichiatra? Chi è? La psichiatra in diretta, la dottoressa Maura Levi, una psichiatra di Milano. Dimmi, che vuoi dire alla psichiatra, Donato? Dottoressa Maura? Me la passi subito un secondo, per cortesia. Donato, che ma perché ce l'hai con Franco Di Mare? Perché ce l'hai con Franco Di Mare? Non ho parlato di Franco Di Mare. No, perché ce l'hai? Ho saputo che ce l'hai con Franco Di Mare. Perché? Franco Di Mare è un miserabile. Un miserabile. Che a me dovrebbe spiegare che cazzo fa in Rai, a che cazzo serve. Ma perché? Ma è un conduttore, lui, dai, io su. Quando parlo di lui, parlo anche di quell'altro porco. Come facciamo a risolvere? Tutta questa merda rossa che hanno distrutto il mondo. Scusa, ma quando. Scusa, io ho capito, Donato, ma tu veramente pensi di avere 12 milioni di seguaci? Certo. Ma come certo? Dai, 12 milioni. 12 milioni di seguaci. No, perché non sono Dio. Io ho 12 milioni di potenziali elettori mi voterebbero qualora io avessi un pochettino di luce. Ma non la luce che devi dare a questa merda a fianco a te. Questo capito? È uno stampino. 12 milioni, dà l'idea che ha un ego ormai che è impazzito, capito? Lo fai in infinitesimi parti, no, ed ma ormai fuori si questo è... qua, quello che hai a fianco. Che vabbè, è incurabile. Ragazzi, 12 milioni di seguaci. Ciao. 12 milioni, che sei malato. Allora ragazzi, io avevo in programma di fare, poi Donato ha scombinato tutto, un collegamento speciale con un altro grande, io lo chiamo complottista italiano, parenza tanto per completare la giornata, come dire, che si chiama Salvo Mandarà. Caro Salvo, ci sei Salvo? Io ci sono, ma sei un po' stronzo però, Giuseppe, eh? Io sono dire, con amore. No, con io amore. Sono sempre stronzo, lo so, ma le trasmissioni radio sono le trasmissioni radio, ragazzi, poi non ti preoccupare. Vabbè, ma tu mi dici alle 8:15, io ho centinaia di persone che aspettano di fare il collegamento e mi chiami alle 8:15, alle 9:15. Aspetta, stai tranquillo. Che Luciani sia uno stronzo, siamo d'accordo. È vero, non c'è dubbio. Che Salvo Mandarà, sono d'accordo, che Salvo Mandarà abbia centinaia di persone che lo aspettano e cose da fare, questo non ci credo, manco allora, se lo vedo. Guarda che c'è l'ambulanza, niente da fare. L'ambulanza? Ma che cazzo Parenzo, ha fatto? C'è l'ambulanza per te. Allora, Salvo, ci rifaremo. Ti prometto che ci rifaremo. Questa è una promessa, ci rifaremo. In poche parole, vorrei capire perché per te quello che è accaduto a Bruxelles è tutta una farsa, una pantomima, è tutta un cinema. Hai parlato addirittura di testimoni hollywoodiani. Perché? Per quale motivo? Spiegami. Allora, i testimoni hollywoodiani, ti dico anche il nome di una che non c'era lì a Bruxelles, ma c'era in tante altre occasioni, si chiama Ginny Watson, che è un'attrice inglese, tra l'altro è pure buona, fa dei film anche abbastanza sexy. Ginny Watson, che per esempio si trovava al Bataclan, è in perfetta dissonanza cognitiva, come hanno spiegato Tommix e Mario 40, piange e ride mentre fa l'intervista con le lacrime, ma nel frattempo sorride mentre racconta di essere scampata col Bataclan. Ma che c'entra col Bataclan questo? Come c'entra? Al Bataclan c'era anche... Ma che c'entra? Adesso stiamo parlando di Bruxelles, un'altra cosa. Sì, e se mi fai parlare te lo dico, c'è il signor Lawani Zihai che è scampato all'aeroporto di Bruxelles, ma anche al Bataclan. Ma guarda che culo che ha questo qui. E allora cosa vuoi dire con questo? Poi c'è il signor Mason Wells che è scampato all'aeroporto di Bruxelles, ma anche alla strage di Boston, alla maratona. Cioè vuoi dire che mettono le persone lì apposta? Ma mettono le persone lì apposta. Ci sono tante persone che sono talmente fortunate da scampare e dunque, e qual è la tua conclusione? Qual è la tua conclusione? La mia conclusione, io non ho delle conclusioni. Siete voi pecoglioni che credete pecoglioni, a quello che dicono i media. Pecoglioni è la parola che ho inventato io, che vuol dire pecoroni e coglione allo stesso tempo. Pecoglioni, questa è bella però, è pecoglioni. E io sto, io sto organizzando un tour che si chiama Pecoglioni Italia Tour. Cercatelo su Facebook. Perché, perché noi saremmo, perché saremmo pecoglioni noi? Spiegami. Ma perché, scusami, ma tu mi devi spiegare una cosa. Allora, tutte le TV, Sky TG24, Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutte quante, più quelle estere, mandano un video montato non si può più sentire in cui nella prima parte si vede l'aeroporto prima dell'attentato. E poi? Nella terza parte si vede l'aeroporto dopo l'attentato. Fanculo, dai. Zitto, Parenzo. Nella parte in mezzo hanno montato il video di Mosca del 2011. Ma perché tutti quanti... Ma quello è stato un errore che hanno riconosciuto, dai, su, certo, un errore, certo. Minchia, avevano, nella regia, avevano, guarda caso, un video del 2011. Ma con questo cosa vuoi dire, Salvi? Io non ho capito. Con tutte queste cose qui, tra falsi testimoni, televisioni che secondo te hanno montato cose che non sono vere, che cosa vuoi sostenere con questa cosa? Giuseppe, ma tu hai visto un ferito, hai visto un morto? Li hai sentiti? Ma ragazzi, ma qua siamo da internare. Cioè, non si sono visti i morti! Salvo i morti! Ma è matto! I morti! I morti! Il grillino manderà i morti! No, no, non sono grillino, non sono grillino. Infatti, sei solo un idiota! Io sono un essere umano, io sono un essere umano. Sei un idiota che dice bestialità. Ma io sono un idiota, detto da Parenzo, idiota è il più bel complimento del mondo. Sono stati morti. Ma come ti permetti di offendere la memoria di queste persone? Stupido! Sei tu, coglione, che li offendi. Sei tu che è un coglione che li offendi. Come fai a dire? Credendo alle puttanate che i tuoi padroni ci raccontano, stupido. E tu che offendi morti. Scusa, Salvo, tu sei passato, sei passato. Un cervello che è una scorreggia. Sei passato. Sei una scorreggia, una scorreggia umana, sei. Inumano. Sei passato dal riprendere, da riprendere i comizi di Grillo a sostenere che nelle stragi i morti non ci sono. Dai, su. No, io non ho detto questo, questo l'hai detto tu. Ma come hai detto tu non hai visto i morti perché non credi che ci sono i morti? Non credi? Io no, io non ho detto non questo. Ci credi o no ai morti? Non ho visto. Io non ho visto un morto, non ho visto un ferito. Io ho sentito il racconto. Il racconto audio, se tu prendi la televisione. Ma che vuoi dire con questo? Che vuoi dire con questo? Non essere. Vai fino in fondo. Che vuoi dire con questo? Che vuoi dire? Io voglio dire che io ho tantissimi, serissimi dubbi. Ma su che cosa? Su tutto quello che ci raccontano, anche perché. Cioè, secondo te è tutta una messa in scena? Questo attentato non esiste, secondo te? Hai dubbi sul fatto che esista un attentato? Ho dei fortissimi dubbi. Ma vai all'aeroporto di Bruxelles! Vai all'aeroporto di Bruxelles! Renditi conto le cose che sono crollate, eccetera, eccetera. È una scorreggia, è una scorreggia, non è una persona, è una scorreggia. Le torri gemelle sono crollate. Mi spieghi com'è caduta la Torre 7? Tu manco lo sai che è caduta la terza torre. Com'è caduta la Torre 7? Basta, non è possibile. Ma tua madre quella sera fosse andata al cinema, avrebbe fatto un favore. Al cinema doveva andare quella sera. Al cinema, tua madre, al cinema quella sera. Tu lo conosci chi? Lo conosci Daniel Psenny? Daniel? È un giornalista francese delle che Monde. Che ha fatto? Ok. Che è l'unico che ha girato l'unico video che esiste della strage del Bagara. Cazzo, l'unico l'ha girato lui che lavora per Le Monde. Sì. Le Monde, sai a chi appartiene? Beh, allora? Al gruppo Lagardère. Allora? E tu conosci il signor Arnaud Lagardère? Il signor Lagardère è colui che l'11 settembre del 2015 ha comprato il Bataclan. E allora? Tre mesi prima dell'attentato. Ma che vuoi dire con questo? L'11 settembre, che è una data che a questi qui. Ma che vuoi dire con queste cose? Che vuoi dire con questa cosa? Vabbè, ragazzi. Io voglio dire. Salvo, aspetta un attimo. Dei media non me le bevo. Per questo faccio un tour che si chiama Pecoglioni. Siamo tutti pecoglioni. Però nei prossimi giorni ci sentiamo. Questo è una promessa, perché le cose di Mandarà vanno approfondite, ragazzi. A domani 18:30. Viva la Zanzara! Va bene, adottate un Cruciani, mi raccomando. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.